Radio 24 Reportage. L'ONU si mobilita contro lo Stato Islamico. Fermiamo la pulizia etnica. Di Silvia Bernardi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu. May peace be upon us all. Your Excellency, United Nations Secretary General Ban Ki-moon. Il presidente dell'Indonesia, Yudo Yono, ha così aperto il sesto Global Forum dell'Alliance of Civilization dell'ONU, che ha portato a Bali oltre 1200 persone, tra capi di Stato, di governo e ministri degli esteri, con l'obiettivo di elaborare strategie per favorire l'integrazione dei popoli. L'Indonesia ha 250 milioni di abitanti, con circa 1000 gruppi etnici diversi che devono accettare e vincere la sfida dell'integrazione e della convivenza pacifica, superando le differenze di cultura, religione, opinione e pensiero. Uniti nella diversità, infatti, lo slogan del forum di Nusa Dua, che accese i riflettori sui diritti civili e sulla necessità di lavorare per un dialogo di pace. Per il segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon, troppe società si stanno frammentando a causa delle differenze culturali, religiose o etniche. In Pakistan, in Kenya, in Palestina, nella Repubblica Centrafricana, nel Sud Sudan, nel Myanmar, in Sri Lanka. We have much work ahead of us across a landscape of tension. Abbiamo molto lavoro davanti a noi e uno scenario di tensioni. Troppo spesso le identità definiscono i confini che conducono allo scontro. Le violenze interne nella Repubblica Centrafricana hanno causato la fuga di centinaia di migliaia di persone. Quasi metà della popolazione, 2,5 milioni, necessitano di aiuti per sopravvivere. L'ultimo membro unitosi alle Nazioni Unite, il Sud Sudan, ha guadagnato l'indipendenza con grandi aspettative. Io stesso ho preso parte alla cerimonia di indipendenza. Ma la lotta per il potere è degenerata in conflitti etnici che hanno ucciso migliaia di civili e lasciato sul campo molti milioni di sfollati. Sono allarmato dall'aumento degli attacchi rivolti in Sri Lanka contro le minoranze religiose. Il governo e i leader delle religioni devono rispondere e assicurare la stabilità e la salvaguardia di tutte le minoranze. Sia in Myanmar che in Sri Lanka mi preoccupa vedere che le comunità buddiste siano colte da un crescente sentimento estremo contro gli altri gruppi. Ciò tradisce gli insegnamenti pacifici del loro fondatore, Buddha. L'incitamento alla violenza in nome della religione è opposto ai loro principi fondanti. Tutte le grandi fedi sono per la pace e per la tolleranza. Il Corano dice chiaramente che non ci deve essere violenza nella religione. The Quran clearly states that there should be no compulsion in the religion. Il numero uno dell'ONU ha abbandonato il consueto linguaggio diplomatico per definire gli ultimi atti delle milizie dello Stato non riconosciuto islamico LIS come brutali uccisioni di civili. Ban Ki-moon ha accusato il califfato che occupa le regioni della Siria e dell'Iraq di star operando una pulizia etnica e religiosa nei confronti di chi non è arabo e sunnita, uccidendo, o nel migliore dei casi, forzando a delle conversioni. Azioni che vanno contro lo spirito del forum indonesiano, che ha l'obiettivo invece di elaborare strategie concrete per favorire l'integrazione tra i popoli. Anche per questo si è detto particolarmente indignato per i rapporti che l'ONU riceve dall'Iraq di brutali uccisioni di civili da parte dell'ISIL, utilizzando il vecchio nome per lo Stato Islamico. That is why I'm especially outraged by the reports from Iraq. Mi sento profondamente frustrato nel vedere quanto avviene in Iraq, le uccisioni brutali di civili a opera dell'ISIS. Intere comunità che hanno vissuto pacificamente per generazioni nell'Iraq del Nord e sono ora costrette a lasciare la loro terra per evitare la morte sicura a causa della loro fede religiosa. Non possiamo permettere che intere fette di popolazioni siano minacciate da crimini atroci per la loro semplice appartenenza religiosa. Accolgo con molto favore il recente cessate il fuoco aperto in Medio Oriente. Dopo 50 giorni di profonde sofferenze umane e distruzione diffusa, ogni violazione risulterebbe gravemente irresponsabile. Civili di ambo le fazioni devono poter vivere in pace, senza temere per le proprie vite. Un cessate il fuoco durevole è necessario per facilitare i soccorsi umanitari, per portare ricovero alla popolazione provata di Gaza. Resto fiducioso che il cessate il fuoco esteso possa aprire la strada di un processo politico, unico metodo per raggiungere una pace duratura. Le parti dovranno attenersi agli impegni presi per assicurare la pace attraverso il rispetto reciproco e per porre fine allo strangolamento economico di Gaza e l'occupazione ormai quasi cinquantenaria. Ulteriori sofferenze, assedio e azioni militari non faranno altro che creare problemi a civili innocenti, rafforzare le fazioni più estreme di ambo le parti e mettere in pericolo la sicurezza del nostro mondo. Innocent civilians empower extremists on all sides and undermine the safety of our world. Ban Ki-moon ha poi sottolineato l'importanza dei giornalisti in vicende simili, riconoscendo ai social media un ruolo strategico nel denunciare guerre, abusi, ingiustizie e crimini in tempo reale, contribuendo a ricreare un dialogo tra culture e religioni differenti. È toccato invece all'alto rappresentante UNAOC, Nasir al-Nasser, insieme al vicepresidente comunicazione BMW Group, Bill McAndrews, coinvolgere i giovani di ONG e associazione non profit nell'Intercultural Innovation Award dell'ONU, che all'interno del sesto Global Forum ha premiato 11 progetti su un totale di 600 che promuovono il dialogo, la comprensione e l'accettazione delle diversità tra differenti gruppi etnici, religiosi e culturali in tutto il mondo. In merito a questo, Ban Ki-moon ha detto che bisogna mandare un messaggio forte al mondo in un momento storico come questo, nel quale la vicenda dell'ISIS dimostra che un mancato dialogo tra culture e religioni diverse porta a grandi conflitti. It is not enough to identify crimes, silence guns, and separate warring parties. Non è sufficiente identificare i crimini, silenziare le armi e separare le parti in conflitto. Dobbiamo lavorare per rafforzare la prevenzione e costruire le fondamenta di una pace duratura. All'inizio di settembre alle Nazioni Unite ho avuto l'opportunità di incontrare una coraggiosa ragazza, Malala Yousafzai, del Pakistan. Lei è un'adolescente, sopravvissuta a un attacco terroristico, semplicemente sospinta dalla motivazione dello studio. Ora è riconosciuta come un modello globale. Abbiamo incontrato circa 500 giovani alle Nazioni Unite, nella sala dell'Assemblea Generale, alla presenza del Presidente dell'Assemblea stessa, per sottolineare i 500 giorni dalla scadenza degli obiettivi di sviluppo del millennio. L'evento è stato senza dubbio molto significativo, nel ricordarci una scadenza importante. Malala Yousafzai ha sottolineato che tutti siamo uguali e che tutti possono essere pacemaker o difensori dei diritti umani. Così si è espressa. Siamo tutti uguali e ognuno può fare la differenza. Prendiamoci o rinnoviamo il nostro impegno a rafforzare l'alleanza delle civiltà, affinché possa svolgere il suo lavoro di resistenza alle forze della disumanizzazione e della brutalità. Facendo così, rinvigoriremo le energie della nostra umanità comune. Lavoriamo insieme sulla base dei principi della Carta delle Nazioni Unite e dell'Alleanza delle Civiltà. Lavoriamo insieme per rendere questo mondo migliore, un mondo dove ognuno possa vivere in dignità. With this power, let's work together to make this world better, where everybody can live with human dignity. Lavoriamo insieme per rendere questo mondo un mondo dove ognuno possa vivere in dignità. Il tema dell'intercultura è infatti oggi geograficamente trasversale. Riguarda tutti molto più da vicino di quanto comunemente si possa pensare. Le società di oggi sono caratterizzate da una forte compressione spaziale e temporale che porta persone di tutto il mondo a vivere in stretta vicinanza. Anche per questo è necessario e sempre più impellente investire nella formazione di un pensiero interculturale che vive nell'oggi, nel presente, nella cronaca, che è radicato nella storia e proiettato nel futuro, proprio come ha dimostrato il sesto Global Forum dell'Alliance of Civilization dell'ONU a Bali, in Indonesia.